denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E buona giornata a tutti e buon inizio 2019 da Deborah Rosciani. In queste giornate al timone di Due di Denari, ve lo anticipo già, sarò anche al timone per tre giornate di Focus Economia, per cui almeno evitiamo l'effetto sorpresa questa sera per chi come sempre un po' lamenta la mancanza dei conduttori tradizionali dei programmi, ma in giornate come queste, come naturale che sia, dobbiamo anche un po' sostituirci ed avvicendarci anche nei programmi che non sono solitamente i nostri. Io rimango invece al timone di Due di Denari, per queste giornate facciamo a meno, ahimè, del nostro Mauro Meazza, che però tornerà lunedì subito dopo la Befana. Ripristiniamo l'accoppiata appunto del programma del mattino destinato all'analisi dei mercati finanziari e di tutte le tematiche che riguardano la gestione del budget della famiglia: risparmi, investimenti, questioni fiscali, quanto e come si spende. Allora, che temi abbiamo deciso di affrontare in questa prima puntata dell'anno, che naturalmente voglio iniziare ancora una volta ribadendo gli auguri a voi tutti da parte della redazione di Radio 24 e del nostro programma. Allora, abbiamo interpellato due associazioni dei consumatori, perché come sapete sono le organizzazioni che ci fanno compagnia per tutto l'anno e che ci aiutano ad orientarci anche nei nostri diritti di consumatori. Abbiamo intercettato alcune storie interessanti da raccontare in questo inizio d'anno così originale, soprattutto per la borsa, e infatti fra un po' approfondiremo anche questa seduta che è già cominciata molto molto male, chissà se nel pomeriggio ne risolleverà la testa. Allora, quali sono le tematiche che abbiamo deciso di affrontare con questa associazione dei consumatori? Abbiamo interpellato questa mattina Conf Consumatori e Aduc. Allora, per quello che riguarda Conf Consumatori, che è impegnata in tante battaglie, ce n'è una in particolar modo che questa associazione sostiene, che è a favore e a fianco delle famiglie che si occupano di anziani. La popolazione anziana è sempre più diffusa nel nostro paese, perché l'Italia, come sapete, vive un trend demografico abbastanza ineluttabile ed inevitabile ed evidente, e quindi ci sono delle campagne molto importanti fatte da Confconsumatori proprio per questo ambito sociale, e ce le faremo raccontare tra poco dalla presidente Mara Colla, che ci spiegherà anche il motivo per cui un'associazione dei consumatori si impegna anche in questo terreno, in questo territorio. Con invece Aduc, più tardi avremo con noi l'avvocato Emanuela Bertucci, vi racconteremo un po' di quelle disavventure che molti consumatori hanno vissuto ultimamente in un ambito che sta emergendo, ahimè, come sempre più diffuso: vendita su internet di prodotti della tecnologia molto sotto costo, ma che poi, una volta appunto ordinati su queste piattaforme, in realtà non arrivano mai a casa. Ho molto banalizzato la questione, che invece è molto più complessa, perché ci sono alcuni siti che organizzano delle vere e proprie vendite di carattere piramidale, quindi questa è un po' la nuova frontiera. Noi che andiamo sempre a caccia del risparmio, ovviamente corriamo il rischio di imbatterci in queste disavventure, ma più che rischi, per molti si sono tramutati in vere e proprie vicende di cui sono stati vittime. Hanno perso i soldi molte persone, e ovviamente i prodotti ordinati su queste piattaforme non sono mai arrivati. 4 di questi siti sono stati oscurati dall'antitrust, l'autorità garante del mercato, ma altri sono ancora attivi, e ci faremo raccontare anche come ci si può tutelare in queste vicende, non solo dall'avvocato Bertucci. Più tardi sarà con noi anche un amico di Due di Denari, Gianfranco Giardina, direttore del portale di tecnologia D-Day. Allora, per tutti questi temi potete intervenire in diretta, perché io sono live, sono con voi, sono appunto dal vivo, all'800 24 00 24. Però, visto che abbiamo due associazioni dei consumatori, potete anche raccontarci quali saranno le battaglie che intendete intraprendere come consumatori in questo 2019, se vi siete dati proprio questo obiettivo: far valere i vostri diritti come consumatori in un territorio specifico, in un campo specifico. Quindi, che ne so, volete cambiare l'abbonamento del telefono, volete cambiare gestore non solo del telefono appunto, ma anche il distributore del servizio dell'energia, insomma avete qualche battaglia che volete sulla quale volete scatenarvi ma non sapete da dove cominciare? Allora, se volete condividere con noi anche questo, siamo pronti a raccogliere le vostre storie, che potete girarci anche attraverso gli altri canali, sono sempre i soliti: 349-238-6666 è il numero che vi consente di inviarci degli sms, ma anche dei messaggi su WhatsApp, che possono essere anche vocali, Vi divertite sempre moltissimo anche con il messaggio vocale. Continuiamo a raccogliere anche le siglette per il nostro GRR che fra un po' inizierà. In alternativa c'è tutto il mondo social sul quale siamo attivissimi: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, c'è il sito di Radio 24 dove potete trovare il link al nostro programma. E poi per messaggi un po' più lunghi ed articolati c'è sempre il caro vecchio indirizzo di posta elettronica che risponde al nome di 2didenari@radio24.it. Meazza Rosciani, informazioni economiche a piene mani. Sigla breve ma molto efficace. Allora, l'informazione economica di oggi nel nostro giornale radio di Risparmio si concentra su tre notizie che ci sono sembrate particolarmente interessanti da condividere con voi. Vabbè, intanto la prima è abbastanza nota, ma così per chi fosse per chi si fosse perso la data dell'inizio dei saldi invernali, sappiate che appunto si inizia da oggi e il 5 gennaio è l'ultima giornata di inizio praticamente sul territorio. Via alle vendite di fine stagione in tutto il paese. Offerte in 280.000 negozi, a caccia dell'affare un italiano su due, e c'è come sempre il tradizionale sondaggio condotto prima della partenza degli sconti da parte della Confesercenti. Allora, tra oggi e sabato prendono il via in tutta Italia i saldi invernali, è il primo grande appuntamento commerciale dell'anno. Le prime regioni a partire sono la Basilicata e la Sicilia proprio oggi, martedì 2 gennaio. Seguono la Valle d'Aosta domani e poi in tutte le altre regioni le vendite di fine stagione scattano venerdì 5 gennaio. Quest'anno gli sconti di partenza saranno più alti della media, l'assortimento molto ampio visto il meteo incerto che ha caratterizzato la stagione invernale. Per i consumatori sarà meglio del Black Friday, con un periodo di sconti più lungo e tutti i vantaggi del negozio tradizionale. Questo è stato il commento rilasciato da Roberto Manzoni, presidente di Fismo Confesercenti. Noi peraltro proprio in una delle prossime puntate di Due di Denari affronteremo nel dettaglio cosa ci si aspetta da questa stagione appunto di saldi invernali. Ogni famiglia avrebbe così previsto di mettere a budget per gli acquisti dell'ultima ora circa 280 euro, quindi il budget per famiglia 280 euro, 122 euro a persona. Calzature e maglieria sono a quanto pare anche in questo giro i prodotti più cercati, ma ne parleremo diffusamente nei prossimi giorni. Ci sono delle novità importanti in arrivo per la cosiddetta assicurazione casalinghe, o meglio l'assicurazione per infortuni domestici INAIL, che è stata istituita da una legge del 99 per tutelare in caso di incidente chi si occupa in maniera continuativa ed esclusiva della cura dell'abitazione dei componenti del nucleo familiare. Le modifiche alla normativa attualmente in vigore sono contenute nella legge di bilancio. Allora, intanto è stato deciso, e questa non è proprio una buona notizia, un aumento significativo del premio assicurativo annuale, che passa dagli attuali 12,91 euro a 24 euro, quindi praticamente un raddoppio, anche se effettivamente la cifra resta molto bassa, ma in ogni caso il premio raddoppia. A fronte di questo aumento ci sono però due novità che sono state giudicate positivamente. Saranno indennizzati con una rendita da parte dell'INAIL tramite il cosiddetto assegno per assistenza personale continuativa gli infortuni che causeranno un grado di invalidità superiore al 16%. Ora la legge prevede un indennizzo solo se l'invalidità è di almeno il 27%, e inoltre se il grado di invalidità riportato è fra il 6 e il 15%, spetterà comunque un indennizzo pari a 300 euro pagato una tantum, cioè una volta soltanto. Un'altra novità riguarda l'età massima dei soggetti che devono assicurarsi. Si passa infatti dagli attuali 65 ai 67 compiuti. Prima a 65 anni questo versamento si doveva interrompere, quindi per le popolazioni, per le persone più grandi non c'era più questa copertura. Di conseguenza la platea degli obbligati diventa più vasta, dato che la legge si rivolge a tutti coloro che hanno un'età compresa fra i 18 e i 67 anni, che si prendono appunto cura della casa. Quindi insomma questa è una notizia importante che abbiamo voluto condividere con voi. L'ultima notiziola del GRR riguarda ancora una volta una platea, anche in questo caso molto estesa, di italiani, e cioè tutti coloro che hanno un'automobile. Sono quasi 1,2 milioni gli italiani automobilisti che, secondo l'analisi fatta ed è stata divulgata proprio in mattinata da facile.it, avendo denunciato alle assicurazioni un sinistro con colpa avvenuto nel 2018, vedranno aumentare la propria classe di merito ed insieme ad essa il costo dell'RC Auto. Si tratta del 3,83% del campione analizzato. Facile.it ha monitorato 500.000 preventivi di rinnovo RC Auto raccolti appunto tramite le pagine di questo comparatore e almeno questa è una buona notizia. Il dato è in diminuzione di quasi il 10% rispetto all'anno precedente, quando ad aver denunciato sinistri per colpa erano stati il 4,22% degli automobilisti alle prese con il rinnovo della polizza RC Auto. Guardando poi all'andamento delle tariffe, nel corso dell'anno scorso, nonostante il calo tariffario medio registrato nel secondo semestre, a dicembre 2018 il premio medio invece sarebbe nuovamente aumentato, toccando i 580,67 euro, valore superiore di oltre il 3% rispetto allo stesso mese del 2017. Questo è un tema molto caro ai nostri ascoltatori che a questo punto direi che possiamo rinviare ad una puntata per un approfondimento completo, come risparmiare sull'RC Auto, visto che per molti è una spesa fissa sulla quale si può far davvero poco per risparmiare. Con il GRR abbiamo terminato, direi di andare velocemente all'uno dei temi più importanti della mattinata, riguarda i mercati finanziari. L'anno parte proprio male per le borse. Sentiamo. Meteo borsa. Allora, le sale operative lavorano ancora, come dire, a regime incompleto, si ritornerà a lavorare pienamente a partire da lunedì prossimo, ma proprio per questo motivo i volumi sono certamente ridotti e quindi anche pochi ordini di acquisto-vendita esasperano le prestazioni degli indici complessivamente, ma in ogni caso non è questa una giustificazione al calo diffuso che vediamo in questa prima seduta del 2019. Abbiamo ribassi che adesso hanno qualche microscopico segnale di miglioramento su qualche piazza, ma in ogni caso non ci sembra nulla di particolarmente incoraggiante. Parigi perde l'1,8%, Francoforte circa mezzo punto, Londra in ribasso di un punto e anche Milano -1,71%. C'è già un caso molto preoccupante per quello che riguarda Milano, ma prima di raccontarvelo andrei all'esame della seduta complessiva con Antonio Tognoli, al quale intanto auguro buon anno, responsabile Sales and Trading di Integra Sim. Buongiorno Tognoli e benvenuto. Buongiorno, buon anno a tutti. E allora cominciamo insomma con un botto all'ingiù questa mattina per le borse europee in 2019. In realtà l'inizio dell'anno presenta sempre un po' delle caratteristiche abbastanza originali. Noi ci ricordiamo molto bene quello che è successo esattamente 2 anni fa, quando a decretare un inizio d'anno piuttosto deludente furono le notizie che arrivavano dalla Cina. Scoppiò la famosa bolla cinese, l'abbiamo ribattezzata in questo modo, ma devo dire che anche stamattina sono le notizie asiatiche che fanno male ai mercati europei, insieme a tutta un'altra pletora di notizie che in realtà sono un po' quelle che ci hanno accompagnato nel 2018. Tognoli, le lascio subito l'analisi di questo avvio d'anno così negativo per le borse europee. Sì, sicuramente c'è la crescita cinese più bassa delle attese che sta tenendo banco. Non credo che si ripeta quello che è successo nel 2016, perché lì era totalmente in attesa. Qui in qualche modo è già un po' che si parla di rallentamento della crescita cinese e di fatto adesso si sancisce che la crescita è più bassa rispetto a quella che ci si poteva attendere. Chiaro che nel momento in cui esce la notizia, con volumi molto bassi, i mercati immediatamente ne subiscono le conseguenze. Quindi primo tema. Secondo tema, ci sono sempre i dazi che tengono banco. Perché? Perché intanto creano incertezza, ma vanno a insistere in un'economia americana che già sta rallentando via evidentemente aumento di tassi. Quindi l'economia si sta raffreddando e in più ci andiamo ad aggiungere un'incertezza: Trump lancia il sasso, poi tira indietro la mano, non si sa cosa fa, ma allora si mette d'accordo, vedi Canada, adesso c'è il grosso tema che succederà ancora una volta con la Cina, cioè si va avanti, non si va avanti con i dazi, ci si stoppa, cioè, l'incertezza, e ovviamente l'incertezza i gestori tendono a vendere, salvo poi andare a ricomprare quando ci sarà meno incertezza. Poi ci sono temi del tutto nostrani. Esatto, e infatti adesso ne parliamo. Ricordiamo anche appunto da oggi il mercato si confronta, anche se non so se può essere significativo già fare un bilancio di queste prime ore di contrattazione, con la fine del quantitative easing della Banca Centrale Europea. Lo spread, il differenziale di rendimento fra il titolo decennale italiano e quello tedesco, è più o meno sui valori di chiusura dell'ultima seduta del 2018, siamo a 253 punti base, sicuramente si aspettava un effetto particolare per quello che riguarda il mercato obbligazionario italiano, ma secondo lei quando cominceremo a vedere un effetto un po' più significativo per l'appunto di questa manovra attesissima, molto annunciata con grandissimo molto tempo fa appunto dalla Banca Centrale Europea, Tognoli? Ma io credo che, visto che tra gennaio e febbraio dobbiamo rinnovare circa 73-74 miliardi di titoli di Stato, e già alla prima asta si comincerà a vedere che cosa succederà. È inevitabile che i rendimenti salgano un pochino rispetto a quello che lecitamente ci si poteva aspettare con quantitative easing attivo, ma questo vuol dire ormai è abbastanza noto. Da qui poi a dire quanto la crescita italiana sarà 0,9, sarà 1,1, non è solo una questione di decimali, perché due decimali su 1.500 miliardi di PIL non sono poca cosa, posti di lavoro eccetera eccetera eccetera. Quindi sicuramente è importante verificare, andare a vedere che succederà alle aste. Allora, per quello che riguarda poi i temi della settimana, segnalo che in Europa sono di particolare interesse i dati sull'inflazione, con ovviamente un focus su alcuni paesi. Abbiamo in pubblicazione anche i dati PMI in Italia, Spagna, Francia e Germania, qualche cosa è già uscito stamattina. Abbiamo la disoccupazione americana, viene diffusa venerdì come sempre, il primo venerdì del mese, quella relativa al mese precedente, quindi vedremo come si è chiuso il 2018 per il mercato del lavoro statunitense, e poi andiamo al tema della giornata per quello che riguarda l'Italia. La Consob ha disposto stamattina la sospensione dalle negoziazioni dei titoli di banca Carige perché il gruppo finisce in amministrazione straordinaria. È arrivato il provvedimento della Banca Centrale Europea sul commissariamento dell'istituto genovese alla luce delle recenti vicende della banca Ligure, con lo stop da parte dell'assemblea degli azionisti all'aumento di capitale che era necessario da 400 milioni di euro, e poi si denuncia la situazione di ingovernabilità in cui la banca versa da settimane, da tempo, anzi qualcosa di più di qualche settimana, e da questa mattina è anche senza consiglio di amministrazione perché tutti i consiglieri si sono dimessi. A questo punto l'amministrazione straordinaria è affidata ad una triade di commissari composta dall'attuale presidente Pietro Modiano e dall'attuale amministratore delegato Fabio Innocenzi. Tognoli, che dire su questa vicenda che non sia stato detto? Beh, è chiaro che siamo un po' all'epilogo, nel senso che da un punto di vista ordinario, quindi tramite l'assemblea, non si è potuto varare l'aumento di capitale da 400-500 milioni, secondo me meglio 5 che 4, e a questo punto si sono dimessi i consiglieri, è decaduto il CDA e si va verso l'amministrazione, anzi si è in amministrazione straordinaria, ovvero sia, detto in altre parole, aumento di capitale da 400-500 milioni sarà fatto, punto, non passerà all'assemblea, oppure vedremo che succede, nel senso che senza quell'aumento la banca è sostanzialmente quasi finita, cioè voglio dire, occorre il classico cavaliere bianco che ci metta 400-500 milioni, oppure la classica banca che ci rimetta, non so chi a questo punto a livello nazionale o internazionale possa intervenire in una situazione di ingovernabilità, come dicevi prima, nel senso che non è una banca che ha dimostrato di essere governabile, tant'è vero che il Consiglio si è dimesso, per cui grosso punto di domanda e grosso scoglio. Una soluzione tipo Monte dei Paschi è mai stata ipotizzata, Tognoli? Intervento dello Stato? Per il momento no, non dimentichiamo che rispetto a Montepaschi è cambiato il governo, per cui ecco che questi qua non è che siano proprio esattamente allineati a fare intraprendere iniziative di questo tipo. Le dichiarazioni che hanno fatto è comunque salveremo le banche italiane, faremo di tutto per, non dimentichiamo che il bail-in è sempre attivo, per cui non è che è stato sospeso, per cui se dovesse esserci la, come dire, il fatto che sia verso il bail-in scatterà. Allora, Tognoli, intanto grazie per essere stato con noi in questa prima giornata del 2019, che certamente ci ricorderemo perché la partenza è abbastanza brusca. Vedremo se nel pomeriggio in qualche maniera l'umore migliorerà. Intanto grazie per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Segnalo ai nostri ascoltatori solamente i migliori titoli in questo momento: Juventus più 2,64, Snam più 0,7, A2A più 0,41%, i peggiori: Biper Banca meno 5, Ubibanca meno 4,5, Fiat Chrysler meno 4. Segnalo anche un'altra cosa, un ascoltatore mi dice: ma come, i saldi partono in tutta Italia venerdì 5 gennaio, effettivamente se oggi è il 2 è mercoledì, venerdì è il 4 e il 5 è sabato. Era anche sbagliato nel comunicato stampa questa data, per cui ci sono cascata in pieno. Grazie a Maurizio Di Iesi che puntualmente mi corregge. Adesso andiamo al tema di oggi. You gotta fight for your right. E allora faccio partire con questa verve così rock la prima intervista di questa mattina, che è quella a Mara Colla, presidente di Confconsumatori. Presidente, buongiorno e grazie di essere ritornata con noi, perché ormai è diventata una piacevolissima consuetudine averla nella prima grazie. Puntata dell'anno del nostro programma. Buongiorno. Grazie, buongiorno, auguri a tutti. Grazie presidente, anche a voi e a tutte le associazioni dei consumatori che per noi si impegnano tutto l'anno per tutelare i nostri diritti e per soprattutto renderci consumatori più consapevoli, perché poi un'altra grande battaglia è questa: abbiamo tanti diritti da far valere ma molto spesso non li conosciamo. Allora, io prima di farle raccontare della vostra iniziativa, il vostro bel progetto, il progetto nazionale Anziano Fragile verso un welfare comunitario, e le ho fatto spiegare anche negli anni passati le ragioni per cui un'associazione dei consumatori si impegna in questo terreno, sono andata a guardare cosa c'è invece nella home page del vostro sito, per capire appunto se in realtà vi siete ormai, come dire, avete cambiato area di azione o se avete ancora anche quelle tradizionali. Invece sul sito vedo che ci sono gli esposti sui disservizi ferroviari, ci sono gli aggiornamenti da parte del settore bancario, Confconsumatori a scuola, ancora avvertimenti sulle modalità con cui le persone fanno dei prestiti e magari non conoscono bene tutti i criteri di scelta di una forma di credito al consumo rispetto ad un altro. E poi ci sono ancora le vittorie contro le banche che hanno avuto situazioni di dissesto e le vittime sono state tante in Italia, eccetera. Però voi avete ecco, quella pure è un'altra storia sulla quale anche noi abbiamo fatto una grandissima battaglia e che ancora non ha scritto purtroppo la parola fine. Ma voi, no. Mara Colla, appunto, sull'anziano puntate, sulle famiglie che vivono queste condizioni di disagio, perché ovviamente le persone di cui prendersi cura ce ne sono sempre di più e rendono, complicano la vita a molte famiglie. Perché avete voluto intraprendere questo progetto? Ma noi siamo un'associazione di consumatori e di utenti, non c'è dubbio, questa è la nostra mission principale, però è anche vero che ciascuno di noi è anche una persona che ha a che vedere con una molteplicità di bisogni, di speranze, di necessità che emanano dalle famiglie, che ormai sono ridotte di numero, sempre più ridotte di numero. Allora, il tema anziani è uno di quelli più gravi che comportano per la famiglia un peso che non è in grado di risolvere da sola, né in termini di informazione di che cosa c'è a disposizione, scarsa conoscenza quindi, né in termini di effettiva possibilità e capacità di sorreggere un peso di questo genere. Allora noi non ci possiamo esentare dal compito, come persone umane, come persone, come impegno civico nostro, non ci possiamo esentare dal compito di fare qualcosa a pro queste famiglie e di queste persone che possono avere bisogno e che hanno bisogno di noi, anzitutto per includerle, anzitutto per non lasciarle da sole, per non lasciarle isolate, ma per insieme creare una rete che, insieme a quella pubblica, insieme ai servizi che già la pubblica amministrazione fa, possiamo fare anche noi, arricchendo se non altro di calore, di partecipazione, di presenza. Ecco, siamo arrivati da queste considerazioni all'impegno di tutta l'associazione a promuovere un'iniziativa insieme con un'associazione di anziani molto grande sul territorio italiano, è presente dappertutto. Ancescao, questa? Ancescao, uh-huh. È proprio Ancescao, che con cui andremo a cercare nelle singole realtà regionali le cosiddette best practice. Perché? Ma perché, tra le altre cose, Il costo della retta è molto alto ed è diversificato di regione in regione. Ora è chiaro che se abbiamo... Lei parla di retta quando intende retta per le residenze sanitarie? Sì, quando è ospitato non nella famiglia ma in una casa di riposo, chiamiamole così, insomma. Sì, ma le conosciamo così, esatto. Perfettamente. Quindi il tema diventa, l'Italia è spesso, lo si dice per molte altre cose, è un abito di Arlecchino, no? Allora non è giusto che le persone vengano trattate in modo diverso dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'assistenza pratica, in modo differente. Allora andiamo a cercare le pratiche migliori e le andremo a esporre, a illustrare ai politici anzitutto, alle istituzioni regionali, all'ANCI, all'Associazione dei Comuni, alle RSA, in modo da far sapere a tutti che cosa è possibile fare, in che termini è possibile fare e in che termini anche il volontario, la persona che ha tempo, che vuole, che desidera fare qualcosa, può fare. Per avere poi, Presidente Colla, io adesso devo salutarla perché la prima parte del programma si sta chiudendo, poi devo andare alla seconda, ma per avere poi che tipo di ricadute sui vostri associati, che tipo di servizio intendete una volta che avete eseguito questo monitoraggio sulle best practices, le avete messe a fattor comune e così avete un po' cercato di capire se queste buone pratiche si possono estendere ovunque, poi per i vostri iscritti per i nostri iscritti non solo, ma per tutta la collettività che si trova in queste condizioni, avere un uguale trattamento e una riduzione delle tariffe, certo, a parità di qualità del trattamento. Questo ci sembra un atto di civiltà e un atto di coraggio che dobbiamo fare anche per aiutare chi deve gestire le cose a farlo nel modo migliore. La costruzione quindi di un welfare comunitario è la vostra grande battaglia del 2019. Riesco a farle raccontare in 30 secondi, se ce la fa Presidente Colla, anche della vostra iniziativa, del progetto pilota Bella Nonno? Abbiamo, allora, sono diverse cose che vogliamo fare nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. Da un lato è chiaro che le persone adulte o anziane non sanno utilizzare il computer e ormai il computer è necessarissimo anche per il fascicolo sanitario obbligatorio, per esempio, no? E che ancora in pochi utilizzano. È necessario per fare un ricorso a un gestore della telefonia come dell'energia. È importante saper leggere le bollette perché fra poco ci sarà la possibilità di viene abolito il mercato di maggior tutela, quindi si dovrà passare al mercato libero. Tutte queste cose che sta dicendo anche lei sono importanti e bisogna conoscere, sapere, e abbiamo pensato che mettere insieme i ragazzi che sanno tutto dell'utilizzo del computer e degli anziani che sanno tutto di che cosa sono le bollette ma non sanno leggerle, non sono in grado di gestire la loro quotidianità, ecco, questo insieme guidato da noi e potrà portare a una modificazione sostanziale anche non solo per gestire meglio casa propria, gli affari di casa propria, la propria quotidianità, ma anche per conoscere meglio quello che la pubblica amministrazione ha già messo a disposizione dei cittadini e che i cittadini non sanno o non sanno usare. Anche qui si tratta di conoscenza e di consapevolezza. Lo sforzo più grosso che faremo quest'anno lo faremo nell'investire nell'informazione, nella formazione delle persone. Poi naturalmente continuano le battaglie classiche. Abbiamo chiesto all'ABI di continuare negli accordi che abbiamo assunto negli anni scorsi per gli aiuti alle famiglie, per il fondo prima casa, perché siano aprano anche ai cassintegrati o a persone che si trovano nelle stesse condizioni di mancanza di lavoro, le sospensioni delle rate dei mutui, per esempio, cioè tutto quello che attiene l'aiuto alle famiglie. Alle famiglie andrà non avanti con lo stesso impegno, certo. Singole persone che hanno motivo e ragione di chiedere aiuto. Grazie, alla collettività. Grazie a Mara Colla, presidente di Conf Consumatori. Buon anno di nuovo, presidente. Ci risentiremo sicuramente presto, ma intanto piuttosto non è presto, ma è tardissimo per i mercati finanziari. Poi andiamo ad altre battaglie. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di Denari. Stavo pensando, prima di introdurvi il prossimo tema di approfondimento, a quanto saranno, non dico ragionevolmente, un po' soddisfatti tutti quei negozianti tradizionali che in questi anni sono stati duramente colpiti anche dall'avvento del commercio online, che sicuramente ci ha reso la vita più facile per certi versi. Abbiamo certamente anche trovato molte ragioni di vantaggio economico nel utilizzare le varie piattaforme che ci consentono appunto di acquistare velocemente e in ogni ora del giorno e della notte i prodotti che vogliamo, ma certamente poi, come per tutte le cose, quando questi mondi esplodono, portano con loro anche tutte le note negative. E allora questo è quanto sta succedendo, per esempio, per alcuni consumatori che nell'ultimo anno si sono avventurati nel terreno del cosiddetto buy and share. È una forma nuova per acquistare su delle piattaforme prodotti di vario tipo, nella fattispecie in particolar modo sono diffusi i prodotti dell'elettronica di consumo, e che però appunto in realtà sono rimasti vittime di delle disavventure, perché in realtà si possono acquistare attraverso queste piattaforme questi beni, in realtà si paga in anticipo e poi il bene non arriva. Io ho molto banalizzato la questione, che però è anche un po' più complicata, perché alcune di queste piattaforme si sono attivate con dei meccanismi di vendita cosiddetti piramidali, al punto che anche l'antitrust è dovuta intervenire, l'autorità garante del mercato e della concorrenza, con un provvedimento di metà dicembre. E allora le associazioni dei consumatori adesso devono vigilare anche su questo. Ma noi abbiamo avuto anche una segnalazione da parte di un ascoltatore sul nostro profilo Facebook, che da settimane ci chiede un aiuto perché è rimasto vittima di uno di questi siti. Allora noi abbiamo intanto voluto interpellarlo. Alessandro, buongiorno, è con noi? Buongiorno, sì. Buongiorno Alessandro. Allora, devo dire che, così almeno siamo chiari e trasparenti fin dall'inizio, che il sito sul cui lei aveva fatto questa prenotazione di un articolo era anche ben pubblicizzato sulla nostra radio. Le devo dire che noi abbiamo anche una vertenza legale aperta con questa società sulla quale stiamo provando a dar battaglia, anche per tutelare tutte le persone che sono rimaste ingabbiate come noi. Alessandro, allora, che cosa le è successo? Ce lo racconta, così poi proveremo a darle dei suggerimenti anche su come tutelarsi dai nostri prossimi ospiti. Sì, allora ricapitolando, intanto io non sono un novellino, perché è più di 20 anni che faccio acquisti online, sia su eBay sia su Amazon, per non fare pubblicità, su altri siti. E vabbè, tanto non hanno bisogno della nostra pubblicità questi signori qua, Alessandro. Non ho mai incorso in una truffa come questa volta, nel senso che sono sempre andato a buon fine, tutto senza mai aver problemi. Mm-hmm. Questa volta invece, sentendo appunto la pubblicità, la vostra radio che seguo quotidianamente, mi sono un po' tra parentesi rifilato, nel senso che dico, fanno la pubblicità su Radio 24, su altre radio a livello nazionale, penso siano controllate, no? Invece purtroppo ho seguito tutto l'iter che prevedeva un bonifico del 50%. Che cosa ha ordinato Alessandro? Io ho ordinato un computer e un telefono. Per un totale di 1128 euro. Quindi questi signori chiedono un pagamento anticipato di metà della cifra esatto, complessiva. Del 50% più il resto a consegna venuta? Alla consegna. Oppure c'era anche la opzione di fare il bonifico direttamente per intero? Totale. Esatto, per intero. Allora facciamo. Quindi questi signori chiedevano il bonifico, non il pagamento con carta di credito, come la maggior parte delle piattaforme. Questa è intanto una modalità differente. Quando ha fatto l'acquisto, Alessandro, a lei non è arrivato mai nulla, quindi da quanto tempo si trascina questo suo contenzioso? Allora io ho fatto il bonifico il 25 di agosto del, 2018, perciò sono già passati... Sei più di sei mesi, sì. E praticamente loro cosa fanno? Loro ordini il materiale che vuoi, fai il bonifico, ti vogliono la copia del bonifico e cominciano a dirti tra una settimana arriva il materiale, va bene. Passa la settimana, passano due o tre giorni, ti mandano un'email che dicono guarda, abbiamo carenza del prodotto, non ti preoccupare, tra 10 giorni arriva. Mm-hmm. Passano altri 10 giorni e via così fin quando una persona dice questa qua secondo me è una truffa, perché non è possibile che passano 2 mesi. E allora richiedi, perché loro giustamente nel contratto ci sono tutte le clausole, tu richiedi il rimborso dei soldi in quanto la loro mancanza non ti hanno spedito i prodotti. E viene a scoprire che praticamente loro hanno 60 giorni di tempo, è scritto chiaramente nel contratto, lavorativi. Per consegnarti bene, se non lo consegnano? Ecco, no, per consegnare, per ridarti i soldi. Ah, ecco. Perché tu una volta che hai detto, a me non mi interessa più il bene perché vedo che non me lo spedisci dopo 2 mesi. Alessandro, io devo sintetizzare adesso, comunque lei ha pagato, nessuno le restituisce niente e il computer e il telefono non li ha mai visti neanche dipinti. No, a parte questo, il problema è che i 60 giorni sono passati, mandi email, mandi tutto quello... E adesso sono spariti tutti, non le risponde più nessuno. Poi ogni tanto ti arriva una risposta automatica, che sono in ferie, adesso ultimamente dicono che sono in ferie, ci rivediamo il 7 di gennaio. Alessandro, ecco, grazie mille, noi continueremo a tenere sotto osservazione ovviamente la vicenda anche per lei e per tutti gli altri che sono rimasti vittime della situazione. Gianfranco Giardina, direttore del portale di Day, nostro grande amico, intanto ciao, buon anno. Grazie altrettanto a tutti gli ascoltatori. E volevo salutare anche Emanuela Bertucci, legale dell'Associazione dei Consumatori ADUC. Buongiorno Emanuela e bentornata. Buongiorno. Buongiorno a voi e buon anno. Allora, con chi comincio? Allora, intanto ho il traffico fra un attimo. Assegno subito un minutino a Gianfranco Giardina per un commento immediato rispetto a questa vicenda che voi conoscete molto bene. Sì, noi l'abbiamo segnalata sin dal giugno scorso, era emersa in maniera abbastanza evidente perché i prezzi erano largamente fuori mercato, nel senso che erano molto convenienti, eccessivamente convenienti, diciamo, e quindi già era un primo fatto che poteva suscitare un po' di attenzione. E quindi poi, anche se internet ci ha molto ben abituato in questi anni su questo aspetto, non dobbiamo esagerare nella esasperazione al ribasso dei prezzi. E poi soltanto partite IVA, questa è un'altra modalità molto particolare, che vuol dire bypassare il codice del consumo, questo è evidente, no? Quindi una vendita B2B e non a un consumatore finale, pagamento anticipato, soltanto bonifico, tutto trincerato dietro una modalità di cambio merce pubblicitario, quindi merce che in teoria proviene dal cambio merce pubblicitario ma su una gamma molto ampia, e poi buoni carburante, tanto per fare un esempio, con uno sconto che poteva arrivare fino al 40% quando le accise sui carburanti sono già il 62%. No, tra l'altro, guarda, molti ascoltatori ci chiedono perché non fate il nome e il cognome di questo sito, è sotto costo online, no? Sottocosto.online. Ecco, sì, questo è il nome, non avevamo paura di nulla, semplicemente così, non abbiamo fatto e basta, ma in totale buona fede, quindi non c'era nessun motivo di non farlo. Ormai la situazione è acclarata da mesi, per cui non è che non dicendolo noi ci guadagniamo qualcosa. Quindi questo è un po' il modus operandi, Gianfranco? E poi dopodiché niente, non arriva la merce, non arrivano i rimborsi, la società era domiciliata presso un service di uffici di Trieste, dove peraltro pare che non si sia mai presentato nessuno, ma sicuramente il service ci ha detto che il contratto è stato rescisso e quindi la società pur sul sito sembra ancora domiciliata lì, ma non è più a Trieste, non è più però in quella località, il sito è ancora attivo, il Tribunale di Trieste ha ordinato di levare i buoni benzina su un'azione d'urgenza promossa da Eni, ma sono ancora lì i buoni benzina, l'antitrust è intervenuta proprio nell'ultimo bollettino dell'altro ieri dicendo che devono essere rimossi tutti i prodotti non disponibili, ma evidentemente ormai il sito pare abbandonato a se stesso. Infatti, e i soldi temo che siano già altro. Volatilizzati con tutti coloro che hanno attivato anche questa iniziativa. C'è il traffico, andiamo poi subito ai profili legali di questa vicenda con Aduc, che in realtà qualche settimana fa ha anche segnalato l'altra iniziativa intrapresa dall'antitrust, l'autorità garante del mercato, di oscurare altri 4 siti che più o meno vendevano prodotti simili ma con una modalità diversa. Ma veramente la mamma dei furbi è sempre incinta, è incredibile. A tra poco. Due di denari. Emanuela Bertucci, legale Aduc, eccoci qua. Allora, non finiscono mai le battaglie per le associazioni dei consumatori. Certo che internet effettivamente amplifica un po' i rischi nei quali ci si può imbattere. Questo non dico che è un po' cronaca di una morte annunciata, ma in qualche maniera effettivamente l'aspetto dei costi così bassi segnalato da Gianfranco Giardini in qualche maniera a volte ci deve far destare qualche sospetto. Detto questo, cosa ha fatto l'antitrust a metà dicembre su altri 4 siti internet un po' nebulosi nella loro attività? Allora, questo è un provvedimento dell'antitrust che riguarda un meccanismo di vendita piramidale. Questi siti che sono quelli bloccati dall'antitrust, Listapro, Zuamish, Shopify e Ibalo, uno di questi non ha ancora ottemperato al provvedimento dell'antitrust, sono dei siti di acquisto online con una modalità però abbastanza particolare. E tra l'altro io ho detto oscurati, in realtà hanno sospeso l'attività, ma di oscurato non c'è nulla. Quindi no, se io, diciamo che l'antitrust ha ordinato di oscurare il sito ai singoli venditori, però ecco, non c'è stato un provvedimento giudiziario di oscuramento. Uno di questi 4, per il momento appunto lo verificavo stamattina, è di fatto ancora online. Cosa fanno questi siti? Propongono prevalentemente beni tecnologici, perché sono i più cari, a grosso modo un terzo del prezzo, e utilizzano questo meccanismo. Quando vieni sul nostro sito tu compri il bene, anzi non lo compri proprio, lo prenoti, paghi un terzo del prezzo e vieni inserito in una lista. I successivi acquirenti di quello stesso bene o di altri beni dal nostro sito andranno a colmare la differenza fra quel terzo di prezzo che hai pagato. Ad esempio, un telefonino di alta tecnologia di questi modelli di punta oggi costa 1200 euro, lo prenoti a 459, paghi 459 e i successivi acquirenti, che a loro volta pagheranno i loro 459, andranno a colmare il tuo prezzo. Quando ci saranno sufficienti acquirenti, a te arriverà l'oggetto. E in effetti l'oggetto arriva inizialmente. Dov'è il problema? Che via via che questa lista va avanti mostra chiaramente di essere un meccanismo piramidale, perché per ogni singolo telefono serviranno altri 3 acquirenti, per quei 3 acquirenti a loro volta ne serviranno altre 9 che compreranno questo oggetto, finché non si arriverà ad un punto di saturazione e collasso, per cui questi beni non potranno più essere assolutamente né acquistati né venduti e non arriveranno più. Certo. Avvocato, ma vi sono arrivate molte segnalazioni di persone incappate in queste disavventure, come suggerite loro di muoversi e tutelarsi? Mi pare di aver capito che quello che è stato speso non lo riavranno indietro. No, non lo riavranno quasi sicuramente indietro, perché queste società, che sono tantissime oggi in Italia, vengono aperte come società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale di 1000 euro o poco più, e il primo caso di cui ci siamo occupati, che è nato, diciamo, è emerso, è scoppiata la bolla a gennaio del 2018, aveva raccolto denari per 1.800.000 euro per ripagare i quali, e quindi ridare effettivamente l'oggetto agli acquirenti, ne sarebbero serviti oltre 5 milioni. La Ma bolla per gettare implosa... un po' di fumo negli occhi, comunque qualcuno di questi beni è stato consegnato, tanto sì, così. Sì, certo, i primi vengono tutti consegnati. E questo, il meccanismo pubblicitario di questi siti, si fonda anche su un altro meccanismo che si chiama l'unboxing su YouTube, cioè loro pubblicizzano, a volte anche con dei personaggi famosi o medio famosi o noti, soprattutto soprattutto fra i giovani, pubblicizzano l'arrivo effettivo di questo prodotto, come a dire, è vero, lo paghi 400 euro ma t'arriva, non è una fregatura, ma in realtà soltanto perché sono i primi della catena sono i primi serviti, e in questo c'è purtroppo una fortissima complicità del consumatore stesso, che pensa di essere più furbo degli altri e di riuscire a fregare gli altri stessi, per cui c'è una sorta di complicità del consumatore in questi meccanismi. Una competizione pazzesca anche a questo livello. Una competizione pazzesca, e vengono denunciate all'associazione dei consumatori questi casi solo quando ormai è troppo tardi, cioè solo quando le persone si rendono conto di essere nelle ultime carrozze del treno e di non riuscire più a ottenere l'oggetto. Allora lì fanno scoppiare, diciamo, la bolla, ci scrivono, e noi abbiamo poi fatto esposti all'antitrust, anche alle procure della Repubblica. In uno di questi casi i gestori di questo sito sono stati arrestati e è stato fatto un sequestro penale di una somma che però è 100.000 euro ed è assolutamente incapiente a risarcire 1.800.000 euro, certo, di persone danneggiate. Allora, il primo consiglio, perché di questi meccanismi ne vengono fuori veramente quotidianamente, e noi associazioni di consumatori ci stiamo dietro, denunciamo all'antitrust, denunciamo alle forze dell'ordine, ma è una lotta immane e rischia di diventare una guerra contro i mulini a vento. La prima cosa, la prima difesa è del consumatore stesso, ed è su questo che noi puntiamo a fare tanta informazione. Una volta che si è fatto questo tipo di acquisto non si torna più indietro, e questi soldi non si vedranno, per cui ognuno di noi, quando vede un prezzo sospettosamente basso, con uno sconto che si aggira dal 50% in su, in questo caso addirittura si parlava di sconti del 70%, bisogna farsi tantissime domande, fare ricerche su quel sito, capire qual è il motivo per cui riescono a fare quello sconto e tendenzialmente diffidare dagli sconti troppo alti, certo, perché poi una volta che si è fatto l'affare, l'affare in realtà l'hanno fatto gli altri, il vero affare siamo noi. Gianfranco, volevo sentire Gianfranco Giardina se ritiene di appoggiare suggerimenti dati dalla... è caduto Gianfranco, va bene, adesso lo ripristiniamo. Avvocato Bertucci, detto questo, sicuramente poi frequentare i social network peggiora un po' la situazione, perché qua ovviamente questi siti hanno l'opportunità di farsi anche una pubblicità che è esonerata dalle regole tradizionali, e oltretutto adesso sui mondi social vediamo anche altre potenziali truffe, che sono quelle che in qualche maniera hanno come sottostanti i prodotti finanziari, che sono ancora peggiori. So che come ADUC state monitorando anche questo mondo, cosa c'è di nuovo, su che cosa anche dovremmo darvi una mano con due di denari quest'anno? Noi, ecco, diciamo che a giorni usciremo in maniera forte contro questi meccanismi. Il tema qual è? Tutti noi usiamo i social, tutti noi subiamo, fra virgolette, la pubblicità su Facebook degli influencer, vediamo quanto gli influencer guadagnano e pensiamo in linea di massima, ma non è giusto, guadagnano con la pubblicità che fanno sui miei post, sulla mia presenza sui social. Da qui sono nati una serie di siti, e da una ricerca velocissima anche su Google se ne trovano veramente tanti, che propongono agli utenti del social di guadagnare tramite il social, cioè di essere loro i soggetti che incamerano gli introiti pubblicitari, e quindi di fatto sono dei social che ti pagano per postare foto, per postare selfie, per postare ricette, per mettere like. Se questo è un meccanismo che in sé non è illecito e non crea alcun problema, se non magari un po' di diffidenza, il discorso qual è? Che su questi social ovviamente vengono attratte le persone che hanno bisogno di denaro o che vorrebbero guadagnare seppur pochi spiccioli per arrotondare, però in modo semplice e da casa, fra virgolette, e si crea una sorta di base d'utenza nella quale poi vengono proposti pacchetti finanziari, sempre passati come remunerazione di un'attività social. Sono dei meccanismi molto strani, perché bisogna stare attenti, sfruttano tanto la popolarità ad esempio del Bitcoin, delle criptovalute, e fanno pensare che ci siano dei rendimenti che arrivano a chiunque anche tramite criptovalute. Morale della favola, si crea anche in questi casi dei meccanismi piramidali, per cui i rendimenti che vengono effettivamente pagati ai primi che fanno parte del social, ai primi che iniziano a attirare questo meccanismo e che con il loro genuino passaparola coinvolgono altri, una base che poi finisce per esplodere. Emanuela, devo salutarla. L'ultimo commento lascio fare a Gianfranco Giardina. Beh, questa della remunerazione dell'attività social, signori, Chiara Ferragni ce n'è una sola e quindi non ci inventiamo di essere qualcosa che non siamo. Gianfranco, l'ultimo minuto di tempo lo affido a te, ti avevamo perso prima con le tue raccomandazioni rispetto al commercio online, quello che ci come dire, attira con delle offerte improponibili. Dacci anche il tuo punto di vista, l'ultima raccomandazione finale per gli ascoltatori. Condivido tutto quello che è stato detto, lo condivido profondamente. Per quello che riguarda il mercato dell'elettronica, che è quasi sempre al centro di queste attività di e-commerce, va detto che gli sconti, i margini che i retailer hanno su questo tipo di prodotti raramente supera il 20%. Quindi questo è l'ordine di grandezza degli sconti normali. Ha molte piccole aziende che compaiono e scompaiono abbastanza velocemente utilizzando i marketplace, per esempio quelli di Amazon e di altri operatori, quindi entrando su marketplace molto più importanti, operano per esempio spesso in evasione IVA e riescono quindi ad avere una marginalità più alta. Poi il prodotto lo consegnano, ma in realtà lo consegnano evadendo l'IVA, sparendo, vuol dire avere un rivenditore che poi non ti riconoscerà più la garanzia e il bene poi arriva. Benissimo, quindi comunque affari troppo grossi sono di solito un preludio a una fregatura altrettanto grossa. Grazie, quindi grazie a Gianfranco Giardina, direttore di Didei, ad Emanuela Bertucci di Aduc per essere stati con noi. Abbiamo già capito le battaglie sulle quali a quanto pare dovremo impegnarci quest'anno, almeno alcune delle tante. Noi ci risentiamo stasera a Focus Economia. Buon inizio anno a tutti e buona giornata.